Grazie a noi che ci siamo in una domenica davvero speciale. È una domenica unica, come ha detto Mario, davvero una occasione che il Signore ci dà di poter vivere qualcosa di speciale. Però prima di dare il messaggio di questa sera, sarò breve, devo essere breve stasera, voglio invitare tutti noi ad alzarci in piedi. C'è qualcosa che già da stamattina il Signore metteva nel mio cuore e sento che è anche per te questa sera. Sapete, Gesù parlava alle folle, Gesù era accerchiato da migliaia di persone, Gesù era sempre, addirittura c'è un passo della Bibbia che dice che la folla attorno a lui era talmente pressante che si schiacciavano i piedi gli uni degli altri, letteralmente nella Bibbia. Però quello che noi leggiamo anche nella Bibbia è che lui guarda a ciascuno di noi individualmente. L'abbiamo visto anche la scorsa settimana, Gesù va alla ricerca della singola pecora perduta. Gesù è interessato a quel figlio che magari ha lasciato la retta via e si è perso. Gesù è interessato a ciascuno di noi individualmente, personalmente. Lui ti conosce. La parola di Dio nei Vangeli, addirittura noi leggiamo che Gesù conosce il numero dei capelli che è sul nostro capo. Ora, per qualcuno è molto semplice dedurre quanti capelli sono nel suo capo, no? Non facciamo nomi stasera, stamattina è stato imbarazzante mettere a disagio qualcuno, però insomma, quello che significa questo verso, che cosa vuole dire Dio, Gesù, quando dice che lui conosce addirittura il numero dei capelli sul nostro capo, sta a significare che lui è davvero interessato a ciascuno di noi personalmente e ci conosce individualmente. Lui ti conosce individualmente, lui sa che non sei solo una folla, che non sei solo parte di una comunità numerosa. Tu sei suo figlio, tu sei sua figlia, lui ti vede e ti ama. Ti conosce per nome e conosce anche tutte le tue situazioni, anche meglio di quanto tu le conosci. Forse ti sembra di dover andare da Dio a presentargli, no, i tuoi problemi, a descrivergli dettagliatamente tutto quello che vivi. Ma posso dirti una cosa stasera? Gesù già conosce ogni cosa di te, ti vede, ti ama e, come abbiamo cantato stasera, Egli ha cura di te. Amen. Quindi vorrei pregare per chiunque questa sera è venuto con un cuore pesante magari, con un bagaglio di situazioni difficili. Magari sei qui e hai una malattia, hai un problema fisico. Il Signore ti vede, Lui ti tocca, Lui ti guarisce, Lui vuole intervenire nella tua vita. Amen? Quindi io voglio chiedere a ciascuno di noi di chiudere i nostri occhi e se questa sera dici io riconosco di aver bisogno del tocco di Dio questa sera, del suo intervento guaritore, allora ti chiedo di alzare la tua mano. Magari stai vivendo una circostanza difficile, una stagione difficile della tua vita. Il Signore Gesù è più potente ed è più grande di qualsiasi problema rappresentato in questa stanza, in questa sala. Quindi mentre abbiamo tutti coloro che hanno bisogno di preghiera, la mano alzata, io voglio pregare. Gesù, ti ringrazio perché tu ci vedi e ci conosci per nome. Gesù, ti ringrazio perché nel tuo nome c'è potenza per guarire. Gesù, io ti ringrazio perché nel tuo nome c'è potenza per liberare. Gesù, io ti ringrazio perché nel tuo nome c'è potenza per cambiare le storie. Io chiedo a te, nel nome di Cristo Gesù, affinché tu possa stendere la tua mano e toccare i tuoi figli e cambiare le loro circostanze. Io prego, Padre, che in questa sala, in questo luogo, il tuo Spirito Santo possa scendere e prima di tutto mettere fede in noi. Padre, togli da noi il dubbio, togli da noi l'incredulità. Noi crediamo che tu sei il Dio potente che può ogni cosa, tu sei l'onnipotente, tu sei colui che guarisce, tu sei colui che libera, tu sei colui che cambia le situazioni, tu sei colui che calma la tempesta. E io prego che nel nome di Gesù tu possa ora toccare ognuna di queste persone e dare a loro una nuova prospettiva su quello che stanno vivendo e che tu possa agire miracolosamente affinché le cose cambino. Nel nome di Gesù prego questo, nel nome potente di Cristo Gesù, io dichiaro questo per ciascuno di noi. Amen. Amen. Amen. Amen. Puoi ripetere con me nel nome di Gesù, amen. Ancora una volta nel nome di Gesù, amen. Ancora una volta nel nome di Gesù. Pensa ora a quelle situazioni e confessa nel nome di Gesù, amen. Amen, amen. Gloria a Dio. Nel nome di Gesù c'è potenza. Lui è colui che è al di sopra di ogni situazione, di ogni problema, di ogni malattia. Gesù è più potente. Amen. Amen. Credici e prima di accomodarti, dillo anche alla persona che ti sta a fianco. Credi nel nome di Gesù. Lui può ogni cosa. Incoraggiamoci in questa maniera. Credi nel nome di Gesù. Credi nella sua potenza. Alleluia. Alleluia. Bene, ora mi sono rimasti solo 12 minuti, li devo sfruttare al meglio. Io questa sera voglio parlare di generosità. Noi abbiamo il privilegio di vivere una visione quest'anno che è una visione di generosità. Gesù per tutti, questo è il nostro desiderio. Il desiderio che il Signore ha messo nel nostro cuore è prendere in seria considerazione il mandato che Lui ha affidato alla sua Chiesa. Il mandato di raggiungere coloro che ancora non lo conoscono per presentare l'Evangelo e vedere più persone salvate per l'eternità. I nostri parenti, i nostri amici, i nostri vicini di casa, i nostri colleghi di lavoro, noi li vogliamo vedere salvati, amen? Questa è la nostra visione per quest'anno. Noi crediamo che Gesù non è solo per pochi, ma Gesù è per tutti, è per questa nazione. Se questa nazione ha bisogno di qualcosa, quel qualcuno è Cristo Gesù, amen? Quando guardiamo la televisione, accendiamo e vediamo i dibattiti politici, i problemi nei notiziari, noi sappiamo qual è la risposta per la nostra nazione. Non è un nuovo partito politico, non è una nuova corrente filosofica, non è un cambiamento morale, è la salvezza in Cristo Gesù. Questa è l'unica potenza che cambia letteralmente la vita delle persone e noi come Chiesa abbiamo il privilegio di rappresentare la soluzione su questa terra per ogni uomo, su questa terra, per questo tempo e anche per l'eternità. Non è un privilegio meraviglioso? Noi lo vogliamo vivere, Gesù per tutti. E anche il nostro donare oggi va in quella direzione. Noi vogliamo fare in modo che tutto quello che andremo a raccogliere straordinariamente, perché sappiamo che questa è una raccolta straordinaria, andrà nella direzione di nuovi progetti, nuove attività, nuove proposte che ci danno l'opportunità di portare Gesù magari in nuove città, come sta accadendo, come è accaduto già diversi anni fa, partendo con il gruppo a Mottola. Posso vedere le mani dei mottolesi? Vogliamo fare un applauso a loro? Che bello avervi! Non dimentichiamoci che c'è una stanza della nostra casa lì a Mottola e a Mottola c'è una chiesa e che il Signore ci ha dato grazia di poter vedere impattate tante persone attraverso la testimonianza di questo gruppo. Noi vogliamo vedere questo sempre di più nella nostra regione e nella nostra nazione. Amen. Noi vogliamo donare per questa ragione. Ora, quando noi parliamo di generosità, noi stiamo parlando di un argomento che è scomodo. È chiaro, no? È qualcosa che ci mette in una condizione di scomodità perché stiamo parlando di soldi, stiamo parlando di qualcosa alla quale noi siamo affezionati particolarmente. Però c'è una differenza tra l'essere discepolo e l'essere simpatizzante. Voglio usare questi due termini, perché essere discepolo di Cristo Gesù significa vivere una condizione di scomodità, una condizione nella quale noi scegliamo di essere scomodati da Cristo Gesù. Potrei citare tanti versi nei quali Gesù descrive cosa significa essere suo discepolo, ma si può racchiudere tutto in una parola, veramente essere scomodi, essere portati a lasciare la propria comodità per seguire Cristo, per fare la sua volontà, per riconoscere che Lui è Re, Lui è guida. Simpatizzanti invece, essere simpatizzanti è un termine terribile, non c'è nella Bibbia, ma molto spesso noi cadiamo nell'errore di vivere la fede come simpatizzanti della Bibbia, quando scegliamo di appropriarci di una porzione della parola e trascurare un'altra parte, simpatizzanti nel venire in chiesa perché magari scegliamo di vivere ciò che ci fa bene, ci dà agio, ci fa stare bene, ma rifiutiamo magari tante altre cose che Dio ci chiama a fare nell'essere chiesa. Ora, il mio privilegio, il nostro privilegio, è che questa Chiesa non ha simpatizzanti e non promuove la posizione di simpatizzanti. Noi siamo discepoli di Cristo Gesù. Amen. Questa è la nostra posizione. Noi vogliamo essere scomodati perché riconosciamo che nell'essere scomodati da Gesù c'è la condizione di vita migliore. Non si può vivere vita migliore se non quella scomodata da Cristo, nella quale scegliamo di seguirlo in ogni cosa, in qualsiasi cosa Lui ci guida. Quindi questa è la nostra scelta, e nel parlare di generosità noi dobbiamo comprendere che stiamo parlando della condizione del nostro cuore. Il salmista nel Salmo 54, versetto 6, si esprime dicendo: con cuore generoso ti offrirò sacrifici. Celebrerò il tuo nome, o Signore, perché sei buono. Con cuore generoso. La generosità è qualcosa che parte prima di tutto dal nostro cuore. Generosità non è tanto quello che tu fai con le tue mani, ma è la condizione del tuo cuore. Per questo Gesù parla così tanto delle finanze. Per questo Gesù parla così tanto dei beni terreni. È per questo che Gesù parla tanto dei soldi. Lui parla continuamente dei nostri averi, dei nostri soldi, del nostro stipendio, di come amministriamo le finanze nostre, perché quando parla di questa tematica, in realtà Gesù sta toccando il cuore di ciascuno di noi, vuole arrivare al cuore di ciascuno di noi. È questo l'interesse che Gesù ha per noi. Un cuore che è avaro è un cuore piccolo ed è un cuore malato. Quando tu vivi una vita che è incentrata sui tuoi bisogni, su ciò che è buono per te, per soddisfare tutti i piaceri che tu hai, tutte le cose che immagini e rincorri e vuoi ottenere, quella condizione è una condizione di malattia. E Gesù è venuto per guarire i nostri cuori. Gesù è venuto per sanarli. Gesù è venuto per fare in modo che i nostri cuori possano essere come i cuori di un atleta. Il cuore di un atleta è più grande, batte di meno perché ha più potenza. E questo è il cuore che Lui vuole per ciascuno di noi, un cuore che è sano, un cuore che pompa bene. Perché? Perché vive la generosità. Gesù parla di generosità, la Bibbia parla di generosità e la Bibbia parla anche di avarizia. L'avarizia è il contrario della generosità, e l'avarizia è un peccato, ed è un peccato grave. Viene elencato tra quei peccati che vengono descritti come condizione dell'uomo che non permette all'uomo di ereditare il regno di Dio. È Gesù che dice in un'occasione, come tante altre: state attenti e guardatevi da ogni avarizia, perché non è dall'abbondanza dei beni che uno possiede che egli ha la sua vita. La nostra vita è piena, è rigogliosa, è carica nel momento in cui noi mettiamo a morte l'avarizia e viviamo la generosità. Amen? Ci piace questo? Quindi io voglio leggere per voi quella che è la definizione di generosità che ho trovato su Google. Ci piace? La definizione che io ho trovato su Google è questa, la seguente. Generosità è nobiltà d'animo che comporta il sacrificio dell'interesse e della soddisfazione personale di fronte al bene altrui. Ci piace? Bella definizione. E quando l'ho letta, ho detto, ma signore, chi ha scritto questa definizione? Non sapeva, ma ha descritto te. Siete d'accordo? Pensate a Gesù, e ve la rileggo la definizione. Nobiltà d'animo che comporta il sacrificio dell'interesse o della soddisfazione personale di fronte al bene altrui. E lo comprendiamo bene se leggiamo passi come Filippesi al capitolo 2, che vi invito a leggere con me, dove c'è scritto «Non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno con umiltà stimi gli altri superiori a se stesso, cercando ciascuno non il proprio interesse, ma quello degli altri. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, ascoltate ora, qui vediamo proprio la descrizione di Gesù e vediamo quanto è vero che Gesù sia stato completamente generoso e lui è la definizione di generosità per eccellenza. Non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. Trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Gesù definisce in assoluto che cos'è la generosità. Umiliarsi, pensare non al proprio interesse e vivere una vita spesa per il bene altrui. E la Bibbia dice anche che Gesù, in virtù della gioia che gli era proposta dinanzi, fece questo gesto, perché la generosità procura gioia. Non è solo sacrificio e dolore, ma procura gioia perché tu poi vedi che la tua vita ha vero valore perché è investita per il bene di altri. Se noi siamo qui questa sera, è importante che noi riconosciamo che è stato perché Dio è stato generoso nei nostri confronti. Se io, tu, possiamo dire che abbiamo la salvezza eterna, siamo curati da un Dio che è presente, abbiamo vita interiore abbondante, è perché Gesù si è sacrificato, è andato oltre l'interesse e la soddisfazione personale per ricercare il bene altrui. Gesù è il perfetto esempio di generosità. E io voglio ricordartelo questa sera. Lui è morto per te. Lui si è fatto uomo, è stato schernito, è stato rigettato, è stato torturato e infine appeso al legno sulla croce ed è morto e ha fatto tutto questo perché ti ama, per generosità, perché voleva il meglio per te, voleva la salvezza tua eterna, perché noi da soli non ci possiamo salvare. Noi non possiamo pagare il prezzo del nostro peccato. Con tutte le buone opere, con tutte le penitenze che ci possiamo procurare, noi non possiamo salvare noi stessi. Ed è per questo che Gesù è intervenuto venendo su questa terra. Noi abbiamo salvezza per Cristo Gesù ed è Lui che ha innescato un effetto a catena che ci permette oggi di godere di questa benedizione e la sua generosità. Io ho chiesto stamattina a qualcuno di procurarmi una tessera del domino. La conoscete? Possiamo vedere anche proiettata. La conoscete, no? È un gioco che forse non tutti conoscono le regole del gioco, però tutti conoscono quello che si fa con queste tessere. L'avete mai visto? Messe una di fianco all'altra in posizione verticale e poi facendo cadere la prima tessera, si innesca un effetto a catena che fa cadere tutte le altre tessere. La generosità funziona così. Quando tu sei generoso, ogni atto di generosità è una spinta ad a una tessera di domino che procura un effetto a catena. Io vorrei che noi stasera riconoscessimo che il primo ad aver innescato questa catena, questo effetto, che non si può mai più fermare, è Cristo Gesù. Ma ci sono state altre persone che sono venute dopo. Io vorrei che noi riconoscessimo stasera che i discepoli dopo di Gesù hanno vissuto una vita generosa. Hanno lasciato case, famiglie, hanno investito i loro averi, hanno sacrificato la loro vita, si sono spostati, sono andati nelle nazioni per annunciare l'Evangelo di Cristo e loro erano il tassello successivo. E così noi potremmo andare avanti nella storia riconoscendo che ci sono tasselli su tasselli che hanno portato l'Evangelo fino a noi oggi. E noi dobbiamo riconoscere fino ai più recenti missionari che sono venuti dall'Olanda e a loro spese hanno investito i loro averi, il loro tempo, i loro talenti, le loro energie per portare l'Evangelo in questa parte d'Italia dove ancora non si conosceva la pienezza della verità della parola di Dio. E noi dobbiamo essere grati a quelle persone che hanno scelto di non rimanere fermi, di non godere per se stessi della benedizione, di quel primo tassello della grazia di Cristo Gesù, senza poi passarla alla prossima generazione, ma si sono mossi, si sono inclinati, si sono lasciati spingere da Cristo per benedire altri. Oggi è il nostro turno. Oggi è il nostro turno, fratelli e sorelle. Chiesa Pieno Vangelo, oggi è il nostro turno per arrivare a nuove generazioni, per continuare a innescare questo processo che nessuno può arrestare, ma che tu puoi decidere se farne parte o meno, per raggiungere le nuove generazioni, per raggiungere altre nazioni, per fondare altre chiese. Noi possiamo decidere attraverso serate come queste, attraverso occasioni come queste, se rimanere fermi ed essere delle tessere di domino che non si fanno piegare, oppure se continuare a innescare quell'effetto a catena che avrà benedizioni su altre persone in una maniera che noi non possiamo neanche prevedere. Questo è il bello della generosità, perché non puoi neanche prevedere quale benedizione porta. Ci sono persone delle quali io sono grato oggi, che hanno permesso a me di crescere nella fede e loro non sanno neanche che la loro generosità ha impattato la mia vita e mi ha permesso di cambiare in Cristo Gesù. Io sono grato a quelle persone per la loro generosità e un giorno loro verranno ricambiati di tutto quello che hanno fatto, dei loro sacrifici, del loro tempo, del loro investimento di talenti e di capacità. E io chiedo a noi oggi, vogliamo essere una chiesa che innesca un effetto domino, che cambia questa nazione, che cambia le nazioni, o vogliamo rimanere fermi? Dipende da te e dipende anche da quel tipo di stile di vita che hai oggi. È uno stile di vita avaro che è incentrato sui tuoi bisogni, su quelle che sono quella che è la soddisfazione dei tuoi desideri, oppure è incentrato sull'investire per il regno di Dio, per le persone che ancora non conosci e per le generazioni a venire. Io so che noi siamo una chiesa generosa ed è per questo che abbiamo Dono Perché Amo. Non tutte le chiese hanno un'occasione dove si va a dare oltre l'ordinario, ma noi lo facciamo e lo facciamo anche con orgoglio. Questa è una cosa bellissima. Quando parlo con i credenti, con ciascuno di voi, c'è orgoglio nel dire non vedo l'ora di poter dare. E allora continuiamo, fratelli e sorelle, continuiamo a innescare questo effetto a catena affinché altre persone siano benedette. La definizione, ve la voglio rileggere, perché mi piace troppo. Non è la Bibbia, è Google, perdonatemi, però è troppo bello perché dice la generosità e nobiltà d'animo che comporta il sacrificio dell'interesse o della soddisfazione personale di fronte al bene altrui. La generosità prevede sacrificio. Non c'è generosità senza sacrificio. A volte i credenti pensano di di dover dare e di avere l'opportunità di dare, perché ricordano quei versi nella Bibbia dove c'è scritto che poi Dio apre i cieli e li benedice. Ed è vero, Dio ha tutta la ricchezza di questo mondo e quando noi diamo, Lui benedice la nostra vita. Ma se la nostra motivazione nel dare è per poi avere in cambio da Dio una benedizione, per avere poi in cambio da parte di Dio una risposta alle nostre preghiere, quella nostra generosità non è vera generosità, è avarizia, è un di nuovo cercare i nostri interessi. E dobbiamo stare attenti a questo, perché la generosità prevede sacrificio. E io non lo so se tu questa sera sei venuto pronto per sacrificarti, per lasciare un pezzo di te. Io sto lasciando un pezzo di me. L'ho fatto stamattina e lo rifaccio stasera. Io sto lasciando e c'è un sacrificio perché so che cos'altro potrei fare con quei soldi. So in che cos'altro potrei investire quei soldi per i miei bisogni e per ciò che mi darebbe maggiore soddisfazione personale. Però so anche che questo gesto, il mio lasciare la busta in quel contenitore, significa anche per me lasciare l'avarizia, lasciare il dominio di me stesso sulla mia vita e sui miei averi. Ed è un gesto nel quale io permetto, attraverso il mio sacrificio, che altri siano benedetti. Questa è generosità. Infatti noi leggiamo nel Vangelo che in un'occasione Gesù si ferma proprio a guardare delle casse. Credo che fossero un po' simili a quelle che noi abbiamo stasera. Forse non nere, forse in legno. E leggiamo che Gesù osservava proprio le persone che davano. E leggiamo proprio che i ricchi, c'erano molti ricchi che davano tanti soldi. E Gesù si sofferma su una vedova che dà due spiccioli. La ricordate come storia? È fortissima perché è straordinaria, è nel mezzo del nulla questa storia e Gesù non dà grosse spiegazioni, dice solo, chiama i suoi discepoli e dice a loro, in verità vi dico che questa povera vedova ha messo nella cassa delle offerte più di tutti gli altri, aveva dato solo due spiccioli, niente di che, ma Gesù riconosce il suo dono, la sua offerta. E poi aggiunge, poiché tutti vi hanno gettato del loro superfluo, ma lei nella sua povertà vi ha messo tutto ciò che possedeva, tutto quanto aveva per vivere. Gesù non aggiunge nessun altro commento, non dà nessun'altra istruzione, non spiega nient'altro ai discepoli. Ed è strano, però evidentemente Gesù ha detto queste cose ai suoi discepoli ed è riportato oggi nella Bibbia che noi apriamo, perché Gesù ha voluto distinguere quella che è un'offerta di generosità da quella che è un'offerta invece di avarizia, nella quale magari diamo per essere osservati dagli altri che stiamo dando, come era il caso di questi ricchi, che magari diamo tanto ma rimane del nostro superfluo, rimane di quella parte che in realtà non porta nessun combattimento interiore, nessun disagio, non ci porta a un sacrificio. Il Signore vuole che noi viviamo la generosità come quella vedova, che non voleva essere osservata, ma ha dato tutto se stessa a Dio, al Tempio, per il proposito del Regno Suo. Questo è il tipo di Chiesa che noi vogliamo essere. Amen? Noi vogliamo essere una chiesa che dà tutto. Non siamo la chiesa più ricca della nazione, non siamo la chiesa più ricca delle nazioni, ma vogliamo dare tutto a Cristo Gesù affinché Lui possa essere onorato e affinché la nostra offerta possa parlare di generosità, possa parlare del fatto che veramente noi vogliamo essere quella tessera di domino che fa la differenza nella storia. Amen? Vogliamo alzarci in piedi e io voglio pregare con ciascuno di noi, per i nostri cuori, perché come ho letto all'inizio nel Salmo 54, la parola di Dio ci invita a dare con cuore generoso. Io vorrei tanto che i cuori di ciascuno di noi possano essere guariti, possano essere sani, possano essere in linea con la volontà di Dio, possano essere cuori grandi. Pare, io prego per ciascuno di noi. Prego nel nome di Cristo Gesù affinché la nostra vita non possa essere caratterizzata dal peccato dell'avarizia, ma io prego che le nostre vite possano essere piuttosto caratterizzate dalla generosità, la tua stessa generosità. Padre, noi vogliamo essere generosi con i nostri averi. Stasera tutto quello che andiamo a raccogliere, Padre, che possa essere un sacrificio di odore soave davanti a te. Noi vogliamo donare il nostro tempo, i nostri talenti, le nostre energie, la nostra vita per una causa maggiore, per gli altri, per benedire altri, per vedere altri scoprire la bellezza del Vangelo e scegliere te. Signore Gesù, noi vogliamo dare la nostra vita affinché altre persone possano lasciare la larga via della perdizione e intraprendere la stretta e angusta via della salvezza. Questo è il nostro desiderio, Cristo Gesù. Cambia i nostri cuori, pare se ci sono cuori malati in questa stanza, vuoi tu toccarli, vuoi tu liberarci da quello che è il nostro modo di vivere passato. Noi vogliamo vivere la vita nuova, essere discepoli tuoi, non simpatizzanti, vogliamo scomodarci e fare la tua volontà con tutto il cuore. Questa è la mia preghiera a nome di tutti noi, a nome di questa chiesa, davanti a te Cristo Gesù. Vuoi tu accogliere le nostre offerte questa sera e vuoi tu fare in modo che esse possano abbondare e possano moltiplicare per l'avanzamento del tuo regno, per nuove chiese che si aprono, per altre persone che vengono raggiunte da eventi, programmi, attività, per le nuove generazioni, bambini, adolescenti e giovani che possano essere invitati a seguire te Gesù attraverso attività e programmi che noi come chiesa proponiamo. Vuoi tu Gesù benedire l'offerta di ciascuno di noi e vuoi tu farci abbondare in ogni cosa, nei nostri lavori, nelle nostre finanze, affinché possiamo aumentare la nostra possibilità e la nostra capacità di generosità per l'avanzamento del tuo regno in questa nazione e nelle nazioni. Alleluia, se sei d'accordo con me, ripeti amen. Amen, amen. Alleluia.